Storie italiane. Le 12 principesse danzanti. C'era una volta un re che aveva 12 figlie, 12 principesse. Ognuna di esse era una più bella dell'altra. Le dolci principesse erano giovani e il re pianificava il loro matrimonio. Il re venne a conoscenza che le 12 principesse danzarono tutta la notte. Nessuno al castello conosceva il loro luogo segreto. Il re era molto preoccupato. Chiuse persino la porta della loro stanza per evitare che uscissero. Ma tutti i suoi tentativi furono vani. Vide dei fori sulle punte delle loro scarpe e decise di prendere dei provvedimenti. Chiunque di voi scopra il segreto del ballo delle 12 principesse avrà la possibilità di sposare una delle mie figlie e sarà incoronato re dopo la mia morte. Ma se quella persona non lo scoprirà entro 3 notti, la sua vita sarà in pericolo. La notizia si diffuse come il vento e molto presto un principe si recò per scoprire il segreto delle 12 principesse. Sono il principe di un regno non molto lontano. Sono giunto qui per scoprire il segreto delle 12 principesse. Il re diede un caloroso benvenuto al principe. La stessa sera, dopo aver cenato, gli fu assegnata una camera per la notte. La stanza era adiacente alla camera delle principesse. Il suo letto era posizionato in modo che potesse facilmente tenere d'occhio le 12 principesse e scoprire il luogo del ballo. La porta della camera delle principesse fu lasciata aperta. Il principe era nella sua stanza. 2 delle principesse gli si avvicinarono e gli offrirono un bicchiere di vino. Il principe bevve un po' di vino e cominciò ad osservare le principesse. Rimase per un po' di tempo seduto, ma alla fine si addormentò. Si svegliò la mattina seguente per scoprire che le principesse avevano ballato di nascosto tutta la notte. La stessa situazione si replicò nelle notti successive. Il quarto giorno, quando il principe non ottenne alcuna risposta, fu ucciso dal re senza alcuna pietà. Nei giorni successivi, molte persone si recarono dinanzi al re per riuscire a scoprire il segreto. Tutti furono uccisi dal re. Il re non fu felice di ucciderli. Non riuscì a scoprire dove si svolgeva il ballo segreto delle principesse. C'era un soldato nel regno che dovette lasciare l'esercito per motivi di salute. Ora, siccome non aveva niente da fare, decise di recarsi in città. Dirigendosi verso la capitale, aiutò una vecchia signora. Lo ringraziò e gli chiese: dove stai andando? Non lo so. Pensavo di andare direttamente dal re. Oh, per le principesse? No. Che cosa è successo alle principesse? Non sai nulla dell'annuncio del re? Oh, ho sentito parlare. Ma sono certo che se io mi recherò lì, perderò la mia giovane vita, proprio come tutti gli altri che hanno tentato. Non bere mai il vino che ti verrà offerto prima di andare a letto e fingi di dormire. Detto questo, la vecchia signora gli regalò un mantello. Sarai invisibile quando indosserai il mantello. Ti aiuterà a seguire quelle 12 principesse, capito? Il soldato ringraziò la vecchia signora e si recò al castello del re. Il re lo accolse. Il soldato fu trattato proprio come tutti gli altri candidati. Più tardi la sera lo accompagnarono nella sua camera, adiacente a quella delle principesse. Dopo qualche tempo, una delle principesse entrò nella stanza del soldato. Buonasera, principessa. Buonasera. Ho portato un po' di vino. Accetta questo dono di benvenuto da parte nostra. Il soldato era al corrente del loro piano. Bevve tutto il vino, ma non lo ingoiò. Mise una spugna sotto la lingua. Mentre la principessa lasciò la sua stanza, tolse la spugna e fece finta di addormentarsi. Le principesse erano pronte per il ballo. si vestirono per uscire. Mentre tutte erano pronte, la figlia maggiore toccò il suo letto. Si aprì una botola. Le 12 principesse, una dopo l'altra, camminarono lungo la scalinata. Il soldato le osservò, indossò il mantello e le seguì. Si mise dietro alla principessa più piccola e a metà percorso la principessa più giovane si sentì osservata. Penso che qualcuno ci stia seguendo. È una sensazione che si ha quando si cammina al buio. Forza, andiamo! Il soldato mise il piede sul suo abito. La principessa si spaventò. Qualcuno ha calpestato il mio abito, ho tanta paura! Si sarà impigliato. Dai, muoviti, usciamo! Il soldato sorrise e seguì le principesse. Le principesse giunsero in un bellissimo giardino, dove tutti i petali degli alberi erano d'argento. Il soldato ne strappò uno come prova. Mentre staccava un petalo, si udì un forte rumore. La principessa più giovane ebbe paura. Hai sentito quel rumore? Sì, era un sussulto di gioia, perché abbiamo liberato un altro uomo. Proseguirono ed entrarono in un giardino ricco di foglie d'oro su ogni albero. Il soldato strappò una foglia. Ancora una volta si sentì un forte rumore. La principessa disse alla più giovane di ignorare il rumore. Continuarono a camminare ed entrarono in un viale pieno di diamanti. Il soldato prese un diamante. Anche questa volta la principessa più giovane sentì un rumore e si spaventò. Raggiunsero un bellissimo lago dove erano in attesa dei 12 principi, con le loro 12 barche. Ogni principessa era seduta assieme a ciascun principe. Il soldato seguì la principessa più giovane. Oh, principessa, la barca oggi è molto pesante. Devo mettere tutta la mia forza per navigare. Non so, io comunque mi sento a mio agio. Le 12 barche giunsero all'altro lato del lago, dove c'era un castello splendido. Le 12 coppie entrarono nel castello, così anche il soldato invisibile. Entrando nel salone, la musica cominciò e le 12 principesse danzavano con quei principi. Ballarono continuamente finché alle loro scarpe non spuntarono dei fori. Decisero di tornare. I 12 principi le riportarono all'altro lato del lago. Questa volta il soldato era seduto con la figlia maggiore. Mentre stavano per tornare nella loro camera, il soldato corse e si sdraiò sul suo letto. Le principesse rientrarono nella loro camera. Siamo al sicuro? Cambiamoci d'abito e andiamo a letto. Così ogni notte il soldato le seguiva, raccoglieva le prove e tornava nel suo letto prima di loro. L'ultimo giorno il re chiamò a sé il soldato. Mio signore, tutte le 12 principesse si recano sotto la loro camera. C'è un castello sotto il tuo regno. Il soldato spiegò tutta la storia. Il re osservava le principesse che stavano origliando da dietro una grande tenda. È vero? Ecco le prove, mio signore. Prenda! Il soldato presentò le foglie d'argento, d'oro e i diamanti che aveva raccolto. Le principesse ammisero il tutto, confessarono ogni cosa. Il re era felice di conoscere la loro versione dei fatti. Si complimentò con il soldato. Dimmi, quale delle mie figlie desideri sposare? Oh, mio sovrano, ho deciso! Sposerò la tua dolce figlia maggiore. Il re ordinò ai suoi uomini di organizzare le cose necessarie per il matrimonio e la cerimonia si svolse lo stesso giorno. Il mio genero sarà incoronato re dopo la mia morte. E tutti vissero felici e contenti.